Letture di Radio 24. La Stidda è un'organizzazione criminale che nasce tra gli anni 80 e 90 da una costola di Cosa Nostra. Non avendo uomini a disposizione per poter controllare il territorio, i mafiosi iniziano a reclutare dei ragazzini, tutti di età compresa tra i 13 e i 16 anni. Nel suo libro Baby Killer, il giornalista Giuseppe Ardica racconta la storia di questi piccoli criminali, partendo dalle loro stesse testimonianze. Per dare maggiore veridicità ai fatti, a parlare in prima persona è uno di loro, il piccolo Diamante, figlio di uno dei boss emergenti della zona. Il libro inizia con il resoconto di come i ragazzini hanno torturato e ucciso Salvatore Tumeo, un quindicenne punito per uno sgarro fatto alla moglie del boss Giovanni Cavallo, detto Cavallo Pazzo. Nella lettura che segue abbiamo scelto di omettere le descrizioni più violente, che potete comunque trovare nel libro di Ardica. Scalciava come un puledro al macello. Lo avevamo legato mani e piedi con il fil di ferro, stretto in un angolo, e lo interrogavamo con i nostri metodi convincenti, a forza di bastonate alla schiena, calci in faccia e picconate sulle cosce, dalla parte della punta, in modo che il ferro gli strazzasse la carne e arrivasse dritto dritto fino all'osso. Cavallo Pazzo chiedeva e il nostro prigioniero rispondeva singhiozzando. E noi, a ogni frase, ci accanivamo a turno, alternando i cazzotti ai colpi sul naso e sugli zigomi, con il calcio di una Beretta 7,65 con la matricola limata. «Dimmi chi ha sparato a mio fratello! Dimmillo, che poi te ne torni a casa tua!» «Gli hanno sparato Argello e Trinca su ordine dei Rubulia. Il vecchio vi vuole ammazzare!» Vi vuole morti perché dice che non lo rispettate abbastanza. E chi è che bruciò la mia macchina, lo sai? So per certo che furono Giuseppe Zibia e Paolo Grainito. Lo fecero con la benzina che io stesso avevo procurato. Sei stato tu a sfregiare e a rapinare mia moglie? Sì, ma io non lo sapevo chi era. Non era un'offesa a Vossia, non mi sarei mai permesso. Mi deve perdonare. Per favore, per carità, lasciatemi stare. Non sapevo che quella signora bionda che rapinai fosse vostra moglie. Il mischino parlava mescolando verità e bugie nella speranza di farci contenti e di continuare a campare. Mentiva. Inventava particolari di circostanze che non poteva conoscere per il semplice motivo che non erano mai avvenute. Povurazzo, non aveva capito niente. Le domande erano soltanto una scusa, un gioco, la nostra maniera di passare il tempo e di allontanare la noia in quelle giornate troppo lunghe, passate a giocare a carte e ad allenarci con le pistole tirando alle bottiglie vuote. In realtà avevamo deciso di scannarlo ancor prima di prenderlo. Sputava sangue e denti spaccati, vomitando e piegandosi in due per il dolore. Supplicava il perdono del nostro capo, Cavallo Pazzo, per lo sgarro commesso, che stava pagando con la moneta dei suoi 15 anni. Vaniava pietà e scuse inutili mentre noi ridevamo e ce ne fottevamo, e continuavamo a scavargli nella pelle con le punte dei picconi e dei martelli. Gridava che lui no, non voleva. E non sapeva che l'obiettivo scelto per la rapina al mercato grande del martedì fosse la femmina che non doveva essere toccata, che mai e poi mai avrebbe osato rubare alla moglie del nostro capo, l'uomo che comandava in città con la legge dell'omicidio e della strage. Lo avevamo inseguito sulla strada che costeggia il mare, non lontano dall'ovile in cui ci eravamo rifugiati nei giorni della latitanza, quando la guerra con Cosa Nostra aveva già fatto decine di morti e i carabinieri avevano cominciato a cercarci come pazzi in tutte le strade di Gela. Lo avevamo braccato usando la Fiat Uno blu requisita con le minacce al nostro complice, un bravo cristiano costretto per volontà dei nostri capi a portarci cibo e bevande 2 volte al giorno nel nostro covo di 7 farine. La nostra vittima guidava una Vespa Piaggio 50 bianca tutta ammaccata. Procedeva piano, senza fretta, probabilmente diretto verso la spiaggia di Manfria a fare il bagno, perché in quella giornata di fine giugno il sole era caldo e l'acqua del nostro mare piatta come una tavola. Fu Cavallo Pazzo a bloccarlo. Scese dall'auto a grande velocità, gli puntò un revolver calibro 38 special in mezzo alla fronte e, spacciandosi per maresciallo dei carabinieri, gli ordinò di salire subito a bordo della Fiat Uno. Io mi occupai della Vespa. Mi guardai intorno per accertarmi che nessuno mi vedesse e la feci sparire in un canale di scolo, poco lontano dal posto in cui avevamo afferrato il nostro prigioniero. Alla fine la Vespa la ammucciai sotto un tappeto di frasche e canne secche. Mentre io pensavo alla Vespa, i miei complici trascinarono il mischinazzo nell'ovile a furia di ammuttoni e pedate nel culo. E quello batteva i denti per il terrore e tremava come una foglia. Aveva capito che non eravamo gli sbirri arrivati per arrestarlo, ma i delinquenti che lo cercavano da settimane per ammazzarlo. Giunti all'ovile, lo gettammo a terra e cominciammo a divertirci, mentre discutevamo i tempi e i modi dell'esecuzione. Se con il proiettile potente della calibro 9 a canna lunga che portavo nella fondina infilata nella cintura dei pantaloni, o con il supplizio lento della tortura e dell'impiccagione. Il nostro capo, Cavallo Pazzo, parlò per ultimo e in modo decisivo. Stabilì che l'affronto subito da sua moglie doveva essere ripagato in modo equo e con una punizione esemplare. Secondo l'antico sentimento dell'onore e del castigo, per vendicare l'offesa ricevuta. Concluso l'interrogatorio, gli andammo addosso in quattro. Io, Cavallo Pazzo, Muriello e Spinazza. Lo bastonammo quasi per un'ora, fino a quando ci stancammo di sudare, ansimare e di ascoltare i lamenti di quel povurazzo. Per completare l'opera e senza pensarci due volte, gli passammo un cappio al collo. Appeso a quel gancio, il nostro prigioniero si trantugliò per una decina di minuti buoni, fino a quando gli occhi uscirono fuori dalle orbite e la noce del collo si ruppe con gran rumore che non avevo mai sentito prima, con il colpo secco di un ramo spezzato. Quando il cadavere cominciò a raffreddarsi e il sangue a diventare secco, lo sistemammo su una carriola per trasportarlo con facilità e senza fatica nel luogo dove lo avremmo fatto scomparire per sempre. Bruciammo i vestiti e poi scaraventammo la nostra vittima in una fossa scavata in un campo di meloni. Per fare un lavoro bello pulito, lo ricoprimmo con una colata di calce viva. Dovevamo squagliare il corpo, suggerì Cavallo Pazzo. Nessuno avrebbe dovuto trovarlo, nemmeno sua madre, per preparargli il funerale. E se qualcuno, per esempio un carabiniere per caso, lo avesse rintracciato, si sarebbe trovato per le mani soltanto un mucchio di ossa mangiate dalla calce che non sarebbero servite a niente, manco ai più esperti poliziotti della scientifica. Alla fine seguimmo tutti l'esempio di Muriello e prima di seppellirlo lanciamo pugni di monetine da 100 e da 50 lire sul corpo del mischinazzo. «Almeno abbiamo pagato le sue infamità e la sua cantata», disse Cavallo Pazzo voltando le spalle e ritornando tranquillo al nostro covo per consumare il pranzo. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Giuseppe Ardica, Baby Killer, storia dei ragazzi d'onore di Gela, Marsilio Editore, 144 pagine, 13 euro.